8. L'altra porta. Era una di quelle mattinate gelide e fredde, come nelle ben note vecchie canzoni. La luce del giorno, pallida e grigia, serpeggiava per il viale dei ciliegi e si diffondeva con trasparenze d'acquario sulle case. Un venticello gemeva attraverso le piante dei giardini. Correva da un capo all'altro del parco con sibili e gemiti lungo il viale. Brrr! Disse il numero 17. Che cosa può fare questo maledetto vento che si agita e urla come uno spettro? Ehi, fermati! Non puoi, forse? Mi fai tremare. Che faccio? Urlava il vento imperturbabile. Si udì un rumore di rastrello nell'interno della casa. Robertson Hay stava rimuovendo le ceneri e disponendo la legna nei caminetti. Ah! Ecco di che cosa ho bisogno, disse il numero 17 mentre Mary Poppins accendeva il fuoco nella camera dei bambini. Qualcosa che scaldi le mie vecchie ossa gelate. Ma ecco di nuovo questo vento lamentoso. Vorrei che se ne andasse a urlare da qualche altra parte. Dove sarà? Sospirava il vento tra i ciliegi. Nella camera dei bambini il fuoco incominciò a crepitare. Le fiamme splendenti danzavano e scintillavano sui vetri delle finestre. Robertson Hay indugiò dinanzi al ripostiglio delle scope per riposarsi un poco delle sue fatiche mattutine. Mary Poppins, come al solito, si affaccendava nel dare aria ai vestiti e preparare la colazione. Jane si era svegliata prima di tutti perché i sibili lamentosi del vento l'avevano disturbata. Adesso se ne stava accoccolata sul sedile della finestra, fiutando il delizioso profumo del pane abbrustolito e guardando la propria figuretta riflessa nelle impannate. Brillava nel giardino la metà della loro stanza, come se fosse stata fatta di luce incandescente. Le fiamme del fuoco scaldavano la sua schiena, ma un'altra fiamma guizzava e saltellava davanti a lei. Danzava nell'aria, in mezzo alle case, sotto il riflesso della cappa del camino. Fuori un altro cavallo a dondolo ciondolava la testa striata e un'altra Jane guardava, ammiccava e sorrideva. Quando Jane respirava sul vetro della finestra e disegnava una faccia nel cerchio appannato, la sua immagine faceva la stessa cosa dall'altra parte. Ogni qualvolta soffiava su con il suo respiro e disegnava, poteva vedere direttamente attraverso se stessa. Dietro al viso che le sorrideva vi erano i rami stecchiti e neri dei ciliegi, e proprio nel mezzo della sua figuretta stava il muro della casa della signorina Lark. Ecco che adesso si sentiva sbattere la porta di casa. Era il signor Banks che usciva per recarsi in città. La signora Banks si dava da fare nel salotto per sbrigare la corrispondenza del mattino. Giù in cucina la signora Brill stava preparando un salmone per il pranzo. Helen aveva preso un altro raffreddore ed era indaffarata nel soffiarsi il naso. Su, nella camera dei bimbi, il fuoco crepitava allegro e si sentiva frusciare il grembiule di Mary Poppins. Insomma, se non fosse stato il vento che soffiava di fuori, era una mattinata tranquilla, normale. Ma la tranquillità non durò a lungo. Michael arrivò correndo con un balzo improvviso e rimase sul limitare della porta in pigiama. I suoi occhi avevano un'aria assonnata mentre rimaneva lì a guardar fisso Mary Poppins. Guardava la sua faccia e i suoi piedi con uno sguardo severo, come se misurasse e cercasse qualcosa senza lasciar fuori nessuna parte di lei. Ebbene, che cosa c'è? Ella domandò. Hai forse perso mezzo scellino e hai trovato al suo posto soltanto un soldino? Egli scosse la testa desolato. Avevo sognato che eri diventata una bella principessa, ecco che ti trovo come sempre. Ella scosse il capo inorgogliendosi. Sì, si è come si è, disse con uno sbuffetto di sdegno. Sto perfettamente come sono, grazie, e ne sono soddisfatta anche se tu non lo sei. Egli le corse vicino, cercando di rabbonirla. Oh, ma certo, ne sono soddisfatto io pure, Mary Poppins, egli disse con impeto. Pensavo soltanto che se il sogno fosse diventato realtà, sarebbe stato una specie di cambiamento. Un cambiamento? Ella esclamò con un altro sbuffo. Avrete dei cambiamenti, come tu desideri, prima di quanto credete, te lo prometto, Michael Banks. Michael la osservò con aria impacciata. Non capiva che cosa intendesse dire. Scherzavo, Mary Poppins, non desidero nessun cambiamento, davvero, ti vorrei soltanto per sempre. Improvvisamente gli parve che le principesse fossero creature sciocche e che nulla si potesse dire in loro favore. Uff, sbuffò Mary Poppins, offesa mentre posava il pane tostato sulla tavola. Non si può avere nulla per sempre, non pensarci neanche, signorino. Eccetto per te, egli rispose insinuante, sorridendo malizioso. Una strana espressione si disegnò sulla faccia di lei, ma Michael non la notò. Con la coda dell'occhio aveva visto che cosa stava facendo Jane e subito le era corso vicino per appannare anch'egli col fiato un altro vetro della finestra. Guarda, egli disse con orgoglio, disegna una nave e vi è un altro Michael fuori che ne disegna una esattamente come me. Fece Jane, senza dargli retta, mentre continuava a osservare la propria immagine riflessa. Poi all'improvviso si voltò e chiamò Mary Poppins. Quale sono io realmente, Mary Poppins? Quella di dentro o quella di fuori? Mary Poppins, con una scodella di porridge in mano, arrivò e rimase diritta fra loro. Ogni volta che sbuffava il suo grembiule frusciava e il vapore della scodella si innalzava di colpo con una nuvoletta. Senza dir nulla, ella osservò la propria immagine nei vetri e sorrise soddisfatta. Poi disse: «È forse un indovinello?» e sbuffò di nuovo. «No, Mary Poppins», disse Jane con premura, «è qualcosa che desidero sapere». Per un momento essi pensarono, guardandola, che potesse essere sul punto di spiegarsi. Poi, evidentemente, ella pensò fosse meglio non farne nulla perché scosse la testa con disprezzo e si volse verso la tavola. Io non so se è così per voi, disse concitata, ma io sono contenta di poter dire che io sono veramente dove mi capita di essere. Vestiti, Michael, per favore, e tu, Giovanni, vieni a fare colazione. Sotto lo sfavillio di quegli occhi di acciaio, i bambini si affrettarono a obbedire e dopo che ebbero fatto colazione e si furono seduti sul pavimento per costruire un castello di mattoni rossi, dimenticarono completamente le loro immagini riflesse. Infatti, se avessero guardato, non le avrebbero trovate, perché il fuoco era diventato di un rosa splendente e le fiamme alte erano sparite. «Così è meglio», disse il numero 17, rannicchiandosi più vicino alla terra. Il calore proveniente dal fuoco scaldava le sue ossa e la casa diventò qualcosa di vivo, animata com'era dall'operosità di Mary Poppins, che pareva ancora più affaccendata del solito. Ella spazzolava i vestiti, metteva in ordine i cassetti, attaccava bottoni e rammendava calze. Mise anche della carta nuova sugli scaffali, allungò gli orli delle camicie di Jane e delle sottane di Barbara. Rinnovò gli elastici dei cappelli di Michael e di Giovannino, riunì i vecchi vestiti di Annabella e ne fece un fagotto per il pupo della nipote della signora Brill. Pulì gli armadi, mise in ordine i giocattoli e allineò i libri nelle apposite scansie. «Com'è occupata! Ne sono quasi stordito!» disse Michael in un sussurro. Ma Jane non aprì bocca. Guardava la figuretta affaccendata e frusciante, e non le riusciva di scacciare dalla mente un vago determinato pensiero, qualcosa, forse un ricordo. Le sussurrava una parola inafferrabile. Durante tutta la mattinata, lo stornello rimase sul tetto della casa attigua a cantare la sua eterna canzone. Ad ogni momento voleva slanciarsi nel giardino e attraverso la finestra guardava con i suoi grandi occhi spaventati Mary Poppins, ma il vento avvolgeva tutta la casa con i suoi urli e i suoi gemiti. Le ore passarono e arrivò l'ora del pranzo. E ancora Mary Poppins si affaccendava come un mulinello. Mise anche dei narcisi freschi nel barattolo della marmellata. Scostò i mobili e scosse le tende e i bambini sentivano la loro camera tremare sotto la sua energica mano. Non finisce mai di armeggiare. protestò Michael con Jane mentre aggiungeva una camera al suo castello. Nello stesso momento, come se avesse inteso ciò che egli aveva detto, Mary Poppins si alzò di scatto. Ecco, ella esclamò compiacendosi del lavoro manuale, tutto è pulito e liscio come uno spillo. Voglio proprio sperare che rimarrà così. Prese poi il suo più bel mantello blu e lo spazzolò. Soffiò sui bottoni per farli brillare e appuntò la stella marina sul suo colletto. Tirò e stirò il suo cappello di paglia nera finché le margherite furono diritte come soldati. Poi si tolse il frusciante grembiule bianco e cinse la sua vita con una cinghia di serpente. Sopra stava scritto in caratteri leggibili e chiari: Dono del giardino zoologico. Non hai più portato questo da molto tempo, disse Michael guardando interessato. Lo conservo per le grandi occasioni, ella rispose con calma mentre si aggiustava la cintura. Prese poi il suo ombrello nell'angolo e ne lucidò con la cera la testa di pappagallo. Dopo di ciò, prese il centimetro di nastro dalla mensola del caminetto e lo ripose arrotolato nella tasca del suo mantello. Jane alzò la testa di scatto. La vista di quella tasca rigonfia le metteva addosso una strana e ansiosa inquietudine. Perché non lasci qui la fettuccina? È al sicuro, Mary Poppins? Vi fu una pausa. Mary Poppins considerò la cosa. Ah, ho le mie buone ragioni, disse finalmente con uno sbuffo sdegnoso. Ma è sempre rimasto sul caminetto da quando sei ritornata. Questo non significa che debba rimanere sempre lì. Ciò che è bene lunedì non lo è più venerdì, rispose con un sorriso ostentato. Jane volse il capo. Che cosa capitava al suo povero cuore? Pareva all'improvviso troppo grande per il suo petto. Sono sola, disse con un sorriso a Michael senza guardarlo. Non puoi essere sola finché io sono qui, disse egli mettendo l'ultima mattonella sul tetto del castello. Non mi capisci, sento che perderò qualcosa. Forse è il tuo dente, osservò il fratello con premura. Prova un po' se non si muove. Jane scosse il capo più volte, non sapeva esattamente che cosa stava per perdere. Ma non si trattava per certo di un dente. Oh, per una mattonella, sospirò Michael, tutto è fatto, meno la ciminiera. Mary Poppins attraversò svelta la camera. Eccoti accontentato. Ecco di che cosa c'è bisogno, disse. Si chinò e mise un domino al posto della ciminiera. Urrà! Così è proprio a posto, gridò Michael, guardandola con riconoscenza. Poi vide che ella aveva messo la scatola del domino davanti a lui. Nel vederla si sentì stranamente a disagio. Tu permetti, gli disse, tu permetti che possiamo tenerla? Aveva sempre desiderato quel domino, ma prima d'allora Mary Poppins non gli aveva mai permesso di toccare ciò che era di sua proprietà. Come mai questo cambiamento? Tutto ciò era in contrasto con il consueto modo di fare di Mary Poppins. Improvvisamente, mentre ella gli faceva cenno di assenso, anche Michael avvertì un senso di desolata solitudine. Oh, gemé senza volere, che cosa c'è che non va, Mary Poppins? Che cosa c'è che non va? Gli occhi di lei lo fulminarono offesi. Ti offro un bel regalo decoroso e mi ringrazi in questo modo? Ho forse qualche torto? Saprò meglio regolarmi la prossima volta. Michael le fu vicino, con moto impetuoso, e le afferrò la mano. Oh, non intendevo questo, Mary Poppins. Ti ringrazio naturalmente. Era un'idea capitata così all'improvviso. Queste idee ti procureranno dispiaceri in uno dei prossimi giorni. Ricordati di quel che ti dico. Ella ammonì con ironia. Adesso mettetevi tutti i vostri cappelli. Andiamo a fare una passeggiata alle altalene. Per fortuna, a quel familiare lampeggiare di occhi, l'ansia dei piccoli si dileguò. Essi corsero a prepararsi tra grida e risate, facendo crollare nella corsa il castello. Un pallido sole primaverile brillava sul parco mentre si affrettavano verso il viale. Un leggero fumo verdognolo avvolgeva i ciliegi su cui germogliavano nuove foglioline. Il profumo di primule era nell'aria e gli uccelletti ripetevano le loro canzoni per l'estate. Vi batterò tutti in altalena, esclamò Michael. Le avremo tutte per noi, gridò Jane, perché non si vedeva nessun altro nel luogo dove stavano le cinque altalene in attesa. In un lampo essi erano saliti ai loro posti e Jane e Michael, Giovannino e Barbara, avevano ciascuno un'altalena tutta per sé. Annabella, che pareva un uovo avviluppato nella lana, divideva la propria con Mary Poppins. Adesso uno. Due, tre, gridò ad alta voce Michael e le altalene oscillarono. I bambini salivano sempre più in alto, lanciati nell'aria come uccelli nella delicata luce del sole. Andavano su con le loro testine verso il cielo e venivano giù con i piedini verso terra. Le piante parevano distendere i loro rami sotto di loro. I tetti delle case si inchinavano e si abbassavano. È come se volassimo, gridò Jane al colmo della felicità, mentre la terra pareva facesse salti mortali sotto i suoi piedi. Ella guardava Michael. La sua chioma scarmigliata volava in tutte le direzioni mentre fendeva l'aria. I gemelli mugolavano come micini spaventati e su tutti loro, col suo aspetto dignitoso, Mary Poppins andava cautamente su e giù. Con una mano teneva Annabella sulle ginocchia e con l'altra teneva stretto l'ombrello. Mentre cavalcava la sua altalena volante, i suoi occhi scintillavano di una strana e splendente fiamma. Erano più azzurri di quanto Jane li avesse mai visti, di un azzurro che sapeva di addio. Pareva che si guardassero da vicino, alberi e case, e si spingessero lontano, al di là dei mari e dei monti e sopra l'estremo limite del mondo. Il pomeriggio trascorse e il parco diventò grigio e denso di ombre sotto i loro piedi, ma Jane e Michael non vi badavano, erano rapiti in un sogno con Mary Poppins, un sogno che li trasportava dolcemente e che non avrebbe dovuto mai finire. Ma il sogno terminò alla fine. Il sole si spense e anche il sogno svanì. Mentre gli ultimi raggi illuminavano il parco, Mary Poppins mise piede a terra e quel suo cullarsi terminò con un richiamo alla realtà. «È ora di andare», disse con calma. Siccome stavolta la sua voce non rivelava alcuna asprezza, essi interruppero immediatamente il loro gioco e obbedirono senza protestare. Dopo che Mary Poppins vi ebbe adagiato i gemelli, la carrozzella riprese il suo consueto cigolio. Jane e Michael camminarono tranquilli, ma la terra barcollava ancora sotto i loro piedi. Erano felici, calmi e pensosi. Cric, cric, faceva la carrozzella inoltrandosi per il viale. Trip, trip, facevano le scarpe di Mary Poppins. Michael guardò in su, mentre gli ultimi raggi illuminavano le foglioline verdi dei ciliegi. Credo, disse pensosa Jane, che Nelly Rubina sia stata qui. Oggi qui e domani via, così sono io, gridò una vocetta squillante. Essi si volsero e trovarono Nelly Rubina, che piroettava sul suo disco di legno, e dietro a lei veniva l'ombra girevole del vecchio zio Dodger. Che giro ho dovuto fare? Gridò Nelly Rubina. Vi ho cercati dappertutto, ansimò. Come state tutti voi? Bene, spero. Volevo vedervi, cara signorina Poppins, per darvi un. Ed anche, disse lo zio Dodger con vivacità, per augurarvi un buonissimo. Zio Dodger, disse Nelly Rubina con un cenno di ammonimento nei suoi occhi. Oh, scusami, ti chiedo perdono, cara, rispose in fretta il vecchio. Soltanto una cosetta, come ricordo, continuò Nelly Rubina. Poi, traendo fuori il suo braccio di legno, lanciò un oggettino bianco nelle mani di Mary Poppins. I bimbi si accalcarono per vederlo. È un discorso! Esclamò Michael. Jane guardò le lettere nella luce evanescente. Addio, addio, mia fata bella, elesse ad alta voce. Vai dunque via, Nelly Rubina? Oh sì, povera me, questa sera è la partenza. E Nelly Rubina sorrise guardando Mary Poppins. Potete prenderlo per mangiarlo durante il viaggio, signorina Poppins. Lo zio Dodger accennava al discorso. Zio Dodger! Gridò Nelly Rubina. Povero me, mi sbaglio di nuovo, sono troppo vecchio. Prendimi come sono, mia cara, ti chiedo perdono, naturalmente. Ebbene, tutto ciò è molto gentile da parte vostra, vi assicuro, disse cortesemente Mary Poppins, e si poteva vedere che era soddisfatta dal modo con cui sorrideva. Poi introdusse nella sua tasca il discorso e diede una spinta alla carrozzella. Oh, aspetta un minuto, Mary Poppins, gridò una voce fioca dietro a loro. Si udì nel viale un battere affrettato di passi e i bimbi si voltarono bruscamente. Ma come mai? Ecco qui i signori Turvey! Gridò Michael, vedendo giungere una figura alta e magra e una rotonda e grassa che si tenevano per mano. Noi li chiamiamo adesso i Topsy-Turvies perché ci sembra che suoni meglio. E il signor Turvey li guardò al di sopra degli occhiali, mentre sua moglie batteva le mani contenta. Ebbene, Mary, egli continuò con la sua voce fioca, abbiamo pensato di fare un salto per un minuto per dirti fino a quando tu lo sai. Ma non per troppo tempo, speriamo, cara Mary, aggiunse la signora Turvey sorridendo. La sua faccia tonda e grassa tremolava come una gelatina, ma con un'espressione felice. Oh, ti ringrazio di cuore, cugino Arturo, e anche te, Topsy, disse Mary Poppins, stringendo loro le mani. Che cosa significa fino a quando? Chiese Jane appoggiandosi contro Mary Poppins. Qualcosa, forse era l'oscurità, la faceva desiderare di essere vicina a quella calda e confortevole figura. Ciò significa, figlie mie, gridò una vocetta all'improvviso, mentre una forma si staccava dall'ombra, tanto lunghe, tanto enormi, tanto stupide, come grosse giraffe galoppanti. E là sul viale stava la signora Curry con il suo mantello costellato di monete da 3 soldi, e dietro a lei Fanny e Annie camminavano come una coppia di lugubri giganti. Ebbene, eccoci di nuovo qui, strillava la signora Curry, sogghignando ai bambini che la guardavano allibiti. Sono cresciuti in fretta, non è vero, Mary Poppins? Immagino che non abbiano ormai più bisogno di te. Mary Poppins assentì con un cenno, mentre Michael con un grido di protesta correva verso di lei. Noi avremo sempre bisogno di lei, sempre. Gridò stringendosi al petto di Mary Poppins con tale impeto da premere contro le di lei ossa forti e aguzze. Sii gentile, Michael, non schiacciarmi, non sono un'acciuga in barile. E lo guardò come una pantera offesa. Ebbene, sono venuta soltanto per scambiare una parola con te, squittì la signora Curry. Una vecchia parola, Mary, una parola che va detta in fretta, come ero solita dire a Salomone quando menava tanto scalpore per la regina di Saba. Se tu lo devi sentire qualche volta, perché non adesso? La signora Curry guardò con tenerezza Mary Poppins e poi aggiunse dolcemente: Addio, mia cara. Andate via anche voi? Chiese Michael guardando la signora Curry. La vecchia sorrise, divertita. Ebbene, sì, sto per partire, per modo di dire. Una volta si va dove tutti vanno, questa è la sorte. E adesso, Fanny e Annie? E si guardò attorno. Che cosa avete fatto di quei regali? Qui, mamma, risposero le sorelle nervosamente. E le mani enormi deposero nelle palme di Mary Poppins 2 panini allo zibibbo. Uno aveva forma di cuore e l'altro di una stella. Mary Poppins gridò di gioia. Ma come, signora Curry, che bella sorpresa! Questo è un festino e un piacere! Oh, non è niente, è un ricordo. E la signora Curry agitò spigliatamente la mano, mentre le sue scarpette con l'elastico ai lati si muovevano inquiete presso la carrozzella. Tutti i tuoi amici sono qui questa sera, fece notare Michael a Mary Poppins. Ebbene, che cosa pensate che io sia, un eremita? Nessuno mi impedirà di poter vedere i miei amici quando mi pare. Ma facevo soltanto un'osservazione, incominciò a dire Michael, ma uno strillo di gioia lo interruppe. Ebbene, Alberto, sei proprio tu? Gridò la signora Curry con allegria e corse a salutare una figura tozza che si precipitava verso di loro. I bimbi gridarono di gioia quando riconobbero il signor Wigg. Ebbene, benedette le mie scarpe, è Clara Curry! Gridò il signor Wigg stringendole affettuosamente la mano. Non sapevo che vi conosceste, esclamò Jane con aria sorpresa. Tutto ciò che non sapete basterebbe per riempire un dizionario. Mary Poppins li interruppe con uno sbuffo. Conoscerci? Eravamo bambini assieme, non è vero, Albert? Gridò la signora Curry. Il signor Wigg sorrise. Ah, i bei tempi passati, rispose cordialmente. Mary cara, come stai? Bene, grazie, zio Albert. Non posso lamentarmi, rispose Mary Poppins. Ho pensato di venire per un ultimo saluto. Buon viaggio e una bella serata per viaggiare. Il signor Wigg guardò attorno. Una nebbiolina stava scendendo sul parco. Peccato, una notte così bella, esclamò Michael. Sperava che Mary Poppins non sarebbe andata via sola, ora che i suoi amici se ne andavano. Ma dopo tutto, pensava fra sé, ella ha ancora me, che cosa può desiderare di più? Una bella notte per navigare, ci vorrebbe, brontolava l'ammiraglio Boom con la sua voce roca. E intanto veniva innanzi tra gli alberi cantando: Navigar, navigar su di una vela mai nata, lascia che soffino i venti di tempesta, noi torneremo, torneremo a casa. Navigar, navigar. Alzatevi, fannulloni, issate le vele, levate l'ancora e lasciatela partire, poiché bisogna andare fino al Missouri. Egli gonfiava il suo naso come un trombone e guardava Mary Poppins. Tutti a bordo, comandò bruscamente mettendo una mano sulla sua spalla. Tutti a bordo, ammiraglio, ella rispose con forza e lo guardò in modo strano. Benissimo, sarò fedele al mio amore se il mio amor sarà fedele. Cantava con una voce abbastanza intonata. Qui, interruppe, a bordo e a babordo, conchiglie e molluschi, non potete farla un marinaio. Palloni e ancora palloni! Gridava una voce acuta mentre un'ombra sopraggiungeva, fischiettando e faceva cadere il cappello dell'ammiraglio. Era la donna dei palloni. Un palloncino volò via dalla sua mano, l'accarezzò con l'estremo limite della funicella e scappò via nell'ombra. Addio, addio, mio caro anatroccolo! Ella invocava mentre il pallone spariva. E così se ne va, come un razzo, gridava Jane intenta a guardarla. Ebbene, non è certamente una detestabile lumaca che striscia, come certa gente che conosco. Buona passeggiata, disse Mary Poppins. Non posso perdere tutta la mia serata. Direi di no, osservò la signora Curry sogghignando. I bambini continuarono a camminare. Una volta tanto erano impazienti di eseguire tutti gli ordini di Mary Poppins. Affettuosamente cercavano di mettere le loro mani sulla carrozzella vicino alle sue dita inguantate di nero. Intanto l'azzurra oscurità della sera li circuiva e li sfiorava come un fiume, mentre essi camminavano in fretta assieme al gruppo ciarliero. Adesso erano quasi alle porte del parco. Il viale si inoltrava nell'ombra davanti a loro e ne veniva una strana musica. Jane e Michael si guardarono l'un l'altro. Che cosa poteva essere? Dicevano le loro sopracciglia inarcate. La loro curiosità era giunta al parossismo. Desideravano rimanere con Mary Poppins, ma desideravano anche sapere che cosa stava succedendo. Guardarono la figuretta blu e poi incominciarono a correre. Oh, guarda! Gridò Jane raggiungendo l'entrata. C'è il signor Twigley con un organetto a mano. E infatti era proprio il signor Twigley che, occupatissimo nel girare la manovella, faceva uscire da una scatola armonica un dolcissimo suono. Vicino a lui stava una figuretta luminosa che riconobbero subito con uno slancio di gioia. Tutto fatto con lo zucchero più fine, diceva costei allegramente al signor Twigley mentre i bambini attraversavano la strada. Cantava festosa la signorina Calicò. Poi, agitando la mano verso di loro, guardate dove mettete i vostri piedi, bambini! Calpestate una delle mie rose! Bert, il lampionaio, si gettava a terra davanti alla porta principale. Stava disegnando un enorme mazzo di fiori con gessi colorati sull'asfalto. Helen e il poliziotto lo osservavano e la signorina Lark e i suoi cani stavano ascoltando la musica fuori della porta vicina. Aspetta un minuto, ella gridò al signor Twigley, faccio una corsetta in casa e ti porterò un uccellino. Il signor Twigley ebbe un aperto sorriso e scosse gentilmente il capo. Non disturbatevi, signora, avvertì la signorina Lark. Un uccellino non mi serve, faccio tutto per amore. I bimbi videro che alzava gli occhi e scambiava uno sguardo con Mary Poppins. Egli provò a girare la manovella con foga e le note si fecero più forti e incalzanti. Ancora un non ti scordar di me e poi è finito, mormorò il lampionaio fra sé aggiungendo un fiorellino al mazzo. Ma questa è una margherita, Bert, disse Mary Poppins con ammirazione. Aveva spinto la carrozzella vicino a lui e stava guardando il dipinto. Egli si gettò ai suoi piedi con un grido e, raccattando il mazzo dal suolo, lo depose nelle sue mani. Sono tuoi, Mary Poppins, disse timidamente. Li ho disegnati tutti per te. Ma davvero, Bert? Ella disse con un sorriso. Oh, bellissimo, non so come ringraziarti. Mary Poppins nascose arrossendo il volto nei fiori e i bimbi poterono avvertire il profumo delle rose. Il lampionaio guardò gli occhi splendenti di lei e sorrise teneramente. È per questa notte, non è vero, Mary? Egli disse. Sì, Bert, rispose ella dandogli la mano. Il lampionaio guardò con mestizia la mano per un momento, poi si chinò e la baciò. Addio, allora, Mary, l'intesero dire in un sussurro, ed ella rispose dolcemente. Addio, Bert. Con aria inquisitrice, Michael domandò: Che cosa vuol dire per questa notte? Questa notte è la più felice della mia vita, dichiarò la signorina Lark, tutta rapita dalla musica dell'organetto. Non ho mai udito una musica più bella, mi fa fremere i piedi. Ebbene, lasciate che fremano con i miei, echeggiò la voce dell'ammiraglio, e afferrata la signorina Lark per la vita, si mise a danzare con lei una polca lungo il viale. Oh, ammiraglio, ella supplicava mentre Boom la faceva ballare a più non posso. La signora Turvey tubava. Occhi di colomba e di gatto, e il signor Turvey, alquanto imbarazzato, l'invitava a ballare. Che cosa ne dici di questo? Diceva ridendo il poliziotto, e prima che Ellen avesse il tempo di soffiarsi il naso, l'aveva trascinata nella danza. Un, due, tre, un, due, tre. Ora, irrompente, ora dolce, si sprigionava la musica dall'organetto. Le lampade della strada sfavillavano, creando sul viale screziature più vivide di luce e di ombra. Un, due, tre, segnavano i piedi della signorina Calicò che danzava da sola vicino al signor Twigley. Era una musica tanto irruenta e gioconda che Jane e Michael non poterono fare a meno di slanciarsi anche loro nella festa. Un, due, tre, i loro piedi segnavano con forza il tempo sul viale che ne vibrava. Che cosa significa tutto ciò? Osservate le regole! Non si può danzare nelle piazze pubbliche! Muovetevi su, non ostruite il traffico! Il guardiano del parco, stralunato come al solito, s'era fatto innanzi, affannando. Ringrazia me e le fave rampicanti! Siete proprio l'uomo che volevo! Strillava la signorina Calicò. E prima che il guardiano potesse sapere dov'era, ella lo aveva a sua volta trascinato nella danza vorticosa che lo faceva ridere da morire. Giriamo, giriamo, Clara! Gridava il signor Wigg, ritmando il passo con la signora Curry. Ero abituata a fare così con Enrico VIII e, oh, come ci divertivamo! Gridava costei. Andate, scioccone, tenetevi in piedi! Aggiunse con voce mutata. A Fanny ed Annie che ballavano assieme come una coppia di malinconici elefanti. Non sono mai stata così felice, era il grido della signorina Lark. Devi andare al mare, mia cara Lucinda, sono tutti felici sul mare, ruggiva l'ammiraglio mentre ballava follemente la polca. Credo che ci andrò, ella replicava. E i suoi due cani si guardavano sbigottiti con la speranza peraltro di vederla cambiare idea. L'oscurità si faceva sempre più profonda mentre i danzatori continuavano a piroettare. Nel mezzo stava ritta Mary Poppins con i fiori stretti nelle mani. Intanto faceva muovere la carrozzella con grazia e batteva il tempo a suon di musica con il piede. Il lampionaio, accovacciato al suolo, la guardava appassionatamente, ma lei se ne stava lì, eretta e rigida, sorridente. E i suoi occhi si posavano ora sull'uno, ora sull'altro. La signorina Lark e l'ammiraglio, i topsy-turvies, i due Noah piroettanti sui loro dischi, la signorina Calicò abbracciata al guardiano del parco, la signora Curry nelle braccia del signor Wigg e le figliolone della signora Curry. E poi il suo sguardo splendente si posò sui due bambini che danzavano nel circolo. Li guardò a lungo, osservando i loro volti splendenti e felici e le braccia dell'uno avvinte al corpo dell'altra. D'un tratto, nel più bello della danza, come se avvertissero quello sguardo su di loro, i due piccoli restettero e corsero da lei, ridendo senza fiato. «Mary Poppins!» gridando entrambi, rannicchiandosi contro di lei. E non trovavano altre parole. Bastava proferire il suo nome. Ella mise le sue braccia attorno alle loro spalle e li guardò negli occhi. Uno sguardo profondo, lungo, ardente, che andò direttamente ai loro cuori, chiaro più di ogni altra parola. E poi, sorridendo a se stessa, si volse, prese il suo ombrello dalla testa di pappagallo e strinse Annabella fra le sue braccia. «Devo andarmene, Jane e Michael. Voi due potete occuparvi dei gemelli». Ancora ansimanti per il ballo, fecero cenno di assenso. «Adesso siate dei buoni bambini», ella aggiunse con calma. «Ricordatevi di tutto ciò che vi ho detto». Jane e Michael sorrisero con aria rassicurante, superfluo dirlo, e si pensarono come se avessero potuto dimenticare. Mary Poppins accarezzò teneramente i visi dei gemelli, abbottonò il mantello di Michael e raddrizzò il colletto di Jane. «Adesso, un, due, andiamo via!» gridò lietamente ad Annabella. E subito attraversò la porta del giardino con la piccola, con i fiori e l'ombrello dalla testa di pappagallo sotto il braccio. La snella figuretta se ne andava così per il suo cammino, con aria vivace, come se fosse completamente soddisfatta di sé. «Addio, Mary Poppins!» gridarono i ballerini mentre ella sostava alla porta principale. Mary Poppins volse il capo e fece ancora un cenno di saluto. Poi, dall'organetto, sgorgò un dolce alto scampanio e la porta principale si chiuse dietro di lei. Quando la musica tacque, Jane rabbrividì. Forse era il freddo dell'aria che le faceva avvertire un senso di solitudine. «Aspetteremo che tutti se ne siano andati, poi torneremo a casa», ella disse. Girò attorno lo sguardo al gruppo dei ballerini. Erano ancora lì, come se aspettassero ancora qualcosa. Ogni viso era rivolto a fissare il numero 17. «Che cosa stanno a guardare?» disse Michael, mentre anche lui guardava in su, col capo rovesciato. In quella sorse uno splendore alle finestre della camera dei bimbi e una figura scura andava qua e là affaccendata. I bimbi sapevano che era Mary Poppins intenta ad accendere il fuoco serale, infatti ora le fiamme balzavano, lingueggiando, ardite, mettendo un vivo bagliore sui vetri delle finestre, che brillavano attraverso il giardino, ormai avvolto nell'oscurità della sera. Quanto più alte erano le fiamme, tanto più dardeggiavano le finestre. Improvvisamente videro che la loro camera era riflessa sul muro vicino della signorina Lark. Splendeva in alto sul giardino con il fuoco scoppiettante e il camino e la vecchia sedia a sdraio e «La porta! La porta!» Un grido soffocato si sprigionò dalla folla del viale. «Quale porta?» Jane e Michael si guardarono, ma in un lampo compresero. «Oh, Michael, non sono i nostri amici che se ne vanno!» gridò Jane con voce disperata. «Ma è... Oh, spicciamoci, spicciamoci, dobbiamo andare a trovarla!» Con mani tremanti, essi tirarono i gemelli e li trascinarono attraverso la porta d'entrata. Corsero su e si precipitarono nella loro camera. Guardando la stanza, allibirono, perché ogni cosa era tranquilla e pacifica come era sempre stata. Il fuoco crepitava dietro alle sbarre e, ben sistemata nel suo lettuccio, Annabella tubava dolcemente. Le mattonelle che avevano adoperate al mattino per fare il castello erano ammucchiate in un angolo. Vicino giaceva la preziosa scatola del domino di Mary Poppins. «Oh!» Ansimarono, sorpresi e incuriositi di trovare tutto come prima. «Tutto? No. Mancava una cosa. Il letto da campo!» gridò Michael. «Non c'è più!» «Oh, dov'è allora Mary Poppins?» Corse nella camera da bagno e fuori nel corridoio e di nuovo nella camera dei bambini. «Mary Poppins! Mary Poppins! Mary Poppins!» Allora Jane guardò alla finestra e gridò: «Oh, Michael! Michael, è qui!» È qui, c'è l'altra porta! Intenta a guardare nella direzione segnata dal dito, ella rimase a bocca spalancata per lo stupore, perché là, fuori della finestra, risplendeva un'altra camera dei bambini. Si stendeva dal numero 17 al muro di casa della signorina Lark. Ogni cosa della vera camera dei bimbi era riflessa in quell'altra, tutta risplendente. Vi era il lettuccio di Annabella e la tavola, tutto in un fulgore luminoso. Vi era il fuoco guizzante nell'aria e là, infine, era l'altra porta, esattamente uguale all'altra dietro di loro. La porta era tutta un tremolio luminoso, come un pannello di luce dalla parte opposta del giardino. Vicino c'erano le loro stesse ombre riflesse e verso di essa, lungo il piano aereo, camminava la figura di Mary Poppins con la valigia di tappeto nella mano e i fiori del lampionaio e l'ombrello a pappagallo stretti sotto il braccio. Attraverso il riflesso della camera dei bambini se ne andava lontano nella tremolante parvenza delle cose familiari. E mentre andava, le margherite pareva accennassero dal suo cappello di paglia nera. Un acuto grido proruppe dalla bocca di Michael, che correva verso la finestra. «Mary Poppins!» gridava. «Torna!» Torna! Dietro a lui i gemelli cominciarono a farneticare. Oh, per piacere, Mary Poppins, torna da noi! Invocò Jane dal davanzale della finestra. Ma Mary Poppins camminava imperturbabile, a lunghi passi affrettati. Ella procedeva verso la finestra, che tremava nell'aria. Non potrà trovare alcun passaggio, disse Michael. Quella via conduce al muro della signorina Lark. Ma proprio mentre parlava così, Mary Poppins raggiunse l'altra porta e la spalancò. I bimbi gettarono un grido di stupore. La parete che credevano di vedere era completamente scomparsa. Al di là della figura eretta di Mary Poppins non c'era più nulla, se non la distesa infinita del cielo, il buio della notte incipiente. Torna indietro, Mary Poppins! Chiamarono Jane e Michael con un'ultima invocazione disperata. Come se li avesse uditi, Mary Poppins si ristette un attimo con un piede sulla soglia. Mentre ella rimirava con dolcezza verso la camera dei bimbi, la stella marina puntata sul suo colletto mandava luccicori. Ella sorrise ai quattro volti rattristati che l'osservavano e agitò il suo mazzo di fiori. E poi aprì l'ombrello dalla testa di pappagallo e rimase appesa nella notte. L'ombrello dondolò per un momento e il bagliore del fuoco lo investì di luce. Poi, con un balzo, come se l'ombrello fosse contento di essere libero, si innalzò nel cielo. Su, su andava Mary Poppins con lui, tenendosi stretta al manico a pappagallo mentre sfiorava le cime degli alberi. Mentre se ne andava così, dall'organetto a mano, e ruppe baldanzoso un concerto musicale, trionfante come una marcia nuziale. Giù, nella camera dei bimbi, la grande fiamma svaniva e si riduceva in carboni ardenti. A mano che le lingue di fuoco si abbassavano, anche la visione dell'altra camera andava dileguandosi. Ben presto non si vide nient'altro che i ciliegi che si agitavano nell'aria e il muro nudo di mattonelle della casa della signorina Lark. Ma sul tetto sorse una forma splendente che volava sempre più in alto. Pareva che adunasse in sé il fremito guizzante e il barbaglio del fuoco. Nel cielo buio e gelido splendeva come un roveto ardente. I quattro bimbi appoggiati al davanzale lo osservavano col viso fra le mani e il cuore in pena. Non cercavano nemmeno una spiegazione, perché sapevano bene che riguardo a Mary Poppins erano cose che nessuno sarebbe mai riuscito a spiegare. Donde venisse, nessuno lo aveva mai saputo, e dove andasse non lo potevano certo indovinare, ma erano sicuri di una cosa: aveva mantenuto la sua promessa. Era rimasta con loro finché la porta si era aperta, e quindi li aveva lasciati, e non potevano dire se avrebbero mai più vista quella figura elegante. Michael andò a prendere la scatola del domino. La pose sul sedile vicino a Jane e insieme vi tennero sopra le mani. mentre rimiravano l'ombrello che vagava nel cielo. Capitò la signora Banks. Ma come siete seduti tutti soli, miei cari? Gridò accendendo la luce. Dov'è dunque Mary Poppins? Soggiunse guardandosi attorno. Andata via, signora, disse una voce risentita, mentre la signora Brill arrivò nel corridoio. La faccia della signora Brill ebbe uno sguardo furente. Che cosa intendete dire? Domandò ansiosamente. Ebbene, è così, replicò la signora Brill. Stavo ascoltando un organetto a mano che è giù nel viale quando ho scorto la carrozzella vuota e il lampionaio che la spingeva verso la porta. Uè, dico, dov'è Mary Poppins? E lui mi dichiara che se n'è di nuovo andata via. Andata, partita senza una parola. Nemmeno uno scritto sul suo puntaspilli. Oh, come farò? Piangeva la signora Banks, abbandonandosi sulla vecchia sedia. Come farò? Puoi venire a danzare con me? Gridava la voce del signor Banks mentre saliva le scale. Oh, non essere sciocco, George. Ci capita qualcosa di grave? Mary Poppins se n'è andata via di nuovo. La faccia della signora Banks era tragica. George, George, ascoltami! Ella implorava. Ma il signor Banks non se ne curava. Stava volteggiando a suon di musica attorno alla camera, tenendosi le falde della giacca. Non posso! Vi è un organetto nel viale che suona il Danubio blu! Tum pum pum tum pum pum! E tirando su la signora Banks dalla sedia la fece ballare a suon di valzer, cantando lietamente. E poi tutti e due caddero sul sedile della finestra fra lo stupore dei bambini. Ma George, parlo seriamente! Protestava la signora Banks, ridendo e piangendo, mentre rimetteva in ordine i capelli. Vedo qualcosa di molto più serio, esclamava guardando fuori dalla finestra. Una stella filante. Guardatela. Fate un voto, bambini. La meravigliosa favilla segnava una scia luminosa nel cielo, facendosi strada nell'oscurità. Mentre essi la guardavano, ogni cuore si era colmato di un'improvvisa dolcezza. Giù, nel viale, la musica tacque e i danzatori si fermarono per mirare in su, incantati, tenendosi per mano. Mio caro amore, disse teneramente il signor Banks, accarezzando la guancia della signora Banks, e si strinsero forte l'un l'altro, formulando un desiderio. Jane e Michael trattenevano il respiro, i loro cuori traboccavano di tenerezza. Desideravano soltanto una cosa, di ricordarsi sempre di Mary Poppins. Dove, come, quando e perché? Non era questo il problema, giacché erano ormai convinti che per il resto non avrebbero mai potuto sapere nulla. La figura splendente che saliva veloce nell'aria avrebbe per sempre custodito il suo segreto. Ma nei giorni della prossima estate e nelle lunghe sere invernali, si sarebbero ricordati di Mary Poppins e avrebbero pensato a tutto ciò che ella aveva loro detto. La pioggia e il sole, e anche gli uccelli e le fiere, e l'avvicendarsi delle stagioni, tutto sarebbe stato pieno del suo ricordo. La vera Mary Poppins era volata via, ma i doni che aveva loro recati sarebbero rimasti per sempre. Noi non ti dimenticheremo mai, Mary Poppins, sospiravano guardando su nel cielo. La sua forma lucente si arrestò nel suo volo e oscillò come per un cenno di risposta. Ma poi l'oscurità piegò le sue ali attorno a lei e la nascose ai loro occhi. Se n'è andata, disse il signor Banks con un sospiro, guardando fuori la notte senza stelle. Poi tirò le tendine della finestra e tutti si rincantucciarono attorno al fuoco. Fine.